Adesso tutti concentrati, mettetevi comodi e cominciamo. L'attesa è finita. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. E allora Totti prova da fuori! Un gol fantastico! Francesco Totti! Colpo di testa in rete! Ha pareggiato il Verona! E il gol dell'1-1! Bosko Jankovic! Per evidenziare la grande partita di sacrificio sua e di suo compagno oggi. Dopo 3 sconfitte consecutive, il Verona trova un punto importante in chiave salvezza. Ferma la Roma. Per la Roma il 6° pareggio nelle ultime 7 partite di campionato. 6° pareggio nelle ultime 7, che significa che uno dei due allenatori sotto i riflettori in questa domenica con pochissimo calcio. A proposito, certamente non un bel biglietto da visita per la nostra Serie A, quello che sta accadendo e che è successo anche ieri sera a Marassi, ma avremo tempo per parlarne. Beh, uno dei due allenatori sotto i riflettori ha fallito l'appuntamento con la svolta. 800 24 00 24, siamo in diretta fino alle 19. Io non so se si può ancora parlare lunedì prossimo di sfida scudetto, Carlo Genta. No, assolutamente. 22 febbraio, campionato finito, morto e sepolto, 9 punti. La Juventus non sta benissimo, adesso si tufferà nel suo sogno, nell'Europa League, nella Champions League, però la Roma non ha nessuna possibilità di recuperare questo svantaggio, non è una Juventus che è in grado di perdere 9 punti, c'è il confronto diretto lunedì prossimo, però... Sì, c'è la sensazione che la Juventus possa sentenziare il campionato, sì. Lunedì 2 marzo, ore 20:45, appuntamento all'Olimpico, a questo punto depotenziato di molti dei suoi significati. Io non so se avete visto il labiale di Totti al momento della sostituzione con Dumbia. Ho l'impressione che anche per Garcia si aprano mille ragionamenti, anche a medio e lungo termine. Comunque, se volete farli con noi, 800 24 00 24, Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. L'altro allenatore sotto i riflettori era Pippo Inzaghi. Saluto Dario Ricci da San Siro. Ciao Dario. Eccoci Giovanni. Direi che se l'è cavata meglio. Sì, beh, direi che Milan che se l'è cavata, ne parlavamo qui con la nostra ospite Arianna Ravelli, inviata del Corriere della Sera. Beh, Arianna, dai, qualche ci anticipo un po', il migliore e il peggiore, visto che era impegnata nelle pagelle fino a pochi istanti fa. Allora, tra i migliori senz'altro Bonaventura, vabbè, tra il gol è sempre stato, tutte le azioni sono sviluppate dalla sua parte, dai suoi piedi. Il peggiore, sai che è destro, del Milan destro sicuramente, ha fatto più pazzini in una mezz'ora in cui è stato impiegato che destro nei restanti minuti. Gli sono arrivati pochi palloni, ma lui non ha fatto molto per andare a prenderli. Sì, anche perché Menez li ha tenuti per sé. Brutto lavoro fare centravanti del Milan. Sì, brutto lavoro fare centravanti del Milan in generale, e credo anche il compagno di reparto di Menez. Sì, certamente Dario. Anche il compagno di reparto di Menez. Eh sì, davvero il solito Menez, senza però quegli spunti offensivi che spesso lo portano al 6 in pagella. Anche oggi un po' mangia palloni alla ricerca della conclusione, e quello che paga è il centravanti, tant'è che il gol di Pazzini è arrivato sul rigore, tra l'altro un rigore fallo di confusione, no? Quello che ha tolto un po' di sale al finale di partita, no, Arianna? Ah sì, perché il Milan non aveva mai riuscito a chiuderla prima, e sicuramente le paure si sarebbero fatte sentire negli ultimi minuti, perché questa è una squadra comunque che ha dei fantasmi, vive accompagnata da fantasmi, però appunto come dicevi tu, quel fallo di Carbonero su Antonelli, diciamo un po', insomma, l'arbitro ha visto che c'è stata questa trattenuta, ha un po' rasserenato gli animi e ha portato il Milan sul 2-0. Sì, no, dicevamo, certo Menez, esatto, Menez è solo contro tutto il mondo, sempre, quindi fa delle cose anche buonissime, perché oggi sui suoi uno contro uno ha preso 3-4 punizioni, ne ha fatti ammonire almeno un paio almeno, e poi insomma si è reso sempre pericoloso. Dopodiché ci sono delle volte che ovviamente lo ammazzeresti, perché non la passa. Sì, le solite pause di Menez. Vi faccio sentire Dario, uno che pause invece non ne ha, Bonaventura, i microfoni di Sky. Farlo per 90 minuti, quindi dobbiamo fare meglio, dobbiamo continuare così. fa parte del mondo Milan, adesso che si ribalta la classifica, cioè il Milan parte nella parte sinistra, passa nella parte sinistra, si riguarda la classifica e si riguarda la zona Europa. Sì, adesso siamo un po' più tranquilli, però le nostre posizioni che ci spettano sono più avanti, quindi dobbiamo lavorare per cercare di arrivare più in su. Si riguarda o no la zona Europa, o c'è un eccesso di ottimismo, Dario? Diciamo subito, forse questo Milan ancora è un po' presto per riposizionarlo in Europa. Giro la domanda a Arianna, ecco, 3 punti importanti per prendere fiato, guadagnare tempo, continuare a lavorare con serenità, ma veramente rilanciano il Milan in chiave europea? Ma 3 punti più che importanti, decisivi, perché non fossero arrivati sarebbe stato un'altra settimana infernale. Quindi decisivi, e salva Inzaghi, e se poi si riveleranno anche salva stagione, nel senso, se saranno questi la scintilla per ripartire veramente alla conquista dell'Europa, è un po' presto per dirlo, nel senso bisogna anche un po' ricordarsi dell'avversario, già solo l'Empoli, ricordiamoci, solo una settimana fa, un'altra squadra più organizzata, quanto fatica aveva e quanti dolori aveva portato al Milan. Quindi insomma, forse penso che sia un po' presto. Sabato c'è già la sfida col Chievo, è un'altra sfida insomma in cui il Milan deve andare a fare punti, vediamo. Grazie Dario, se hai altri ospiti noi torniamo da te fra qualche minuto. C'è Garcia, microfoni di Sky. Poi però poco di più, nel senso che avete sofferto il ritorno del Verona, avete faticato a trovare le soluzioni contro una squadra molto molto chiusa, tutto sommato una prova insufficiente, possiamo dirlo? Beh, nel primo tempo abbiamo giocato bene, è anche incredibile tornare nello spogliatoio con 1-1, perché Florenzi era infortunato e su mezza occasione hanno pareggiato con autogol. Penso che da voi si dice manca sempre uno per far 31 in questo momento. Nel secondo tempo è vero che abbiamo mostrato un po' meno pazienza, abbiamo fatto più errori che non abbiamo fatto nel primo tempo, ma con un po' di fortuna vediamo questo gol e questa traversa di Adem Ljajic, era possibile chiudere la partita nel primo tempo. Quando le squadre si sono allungate nella fine della seconda della seconda parte del secondo tempo, non le sembrava la squadra che soffrisse la corsa, la fisicità del Verona? Abbiamo visto 3-4 suoi uomini un po' con la lingua di fuori, un po' che faticavano a rientrare con questa squadra che si era allungata. Ma ricordo che abbiamo giocato 3 giorni fa e che forse nell'ultimo quarto d'ora è anche normale di essere un po' stanchi. Abbiamo visto che chiedeva molto a Dumbia di partecipare più al gioco, di rientrare, di non fare la punta isolata dentro l'area di rigore avversaria. Ha la condizione fisica per fare questo ruolo, secondo lei? No, non ho mai chiesto questa cosa. Ho detto a Sedù di rimanere in avanti e di sfruttare i palloni nell'area, perché è entrato per dare una posizione in più in attacco, quando il capitano era un po' stanco, ma non ha avuto quasi niente da mettersi sotto i denti. È così, lui è entrato, bisogna un gol per lui per dare la fiducia sufficiente, ma più un atteggiamento buono della squadra nel primo tempo e un po' con meno pazienza nel secondo. Ilaria. Questo Garcia si gira intorno, Carlo, alla questione fisica sì, della Roma. Ma la Roma che non fa più paura a nessuno, cioè, è evidente che l'abbiamo visto insieme, cioè, anche se tiene palla, anche se palleggia al limite dell'area, non dà mai l'impressione di far paura agli avversari. Ha perso totalmente di autostima, non è in buona condizione fisica, questo si vede, si nota. È una Roma che ha mollato, non c'è niente da fare, Giovanni, questo campionato è finito, è inutile insistere. Non so se qualcuno ha opinioni contrarie, lo sì, invitiamo. 800 24 00 24, c'è chi già scrive via sms, c'è anche il numero sms 349 238 6666, lo ricordo. Sbagliate a vendere la pelle dell'orso prima dello scontro diretto e prima delle gare di Champions, questo è Sebastiano. Però l'impressione, Sebastiano, è quella di una Roma che sia in rotta, in attesa di tornare anche a San Siro. Da Dario Ricci c'è il traffico. Menessa, spazio Bonaventura per il tiro, controlla al limite, Bonaventura! Milan in vantaggio con Cech, Bonaventura! convocati. Nel secondo tempo abbiamo avuto meno pazienza, abbiamo fatto degli errori, e era possibile per loro fare alcune ripartenze, ma lo dico ancora, sull'ultimo quarto d'ora, anche con due giocatori freschi, perché Torosis è entrato nel primo tempo, abbiamo mancato un po' di lucidità e siamo andati un po' troppo veloce per fare l'ultimo passaggio. Aggrappato alla questione fisica, questo è Rudy Garcia, ma credo ci sarà da parlare molto anche delle sue scelte. Oggi non è partito De Rossi, ha giocato titolare Totti, che poi non ha preso benissimo il momento della sostituzione. L'impressione è che non ci sia solo una questione fisica. Torniamo a San Siro, Dario Ricci. Dario. Sì, Giovanni, prima di coinvolgere Franco Ordine, inviato del giornale sulla partita di San Siro, vi dobbiamo anche una battuta di Ruud Gullit, ambasciatore del calcio olandese e grande ex milanista, sui fatti dell'Olimpico. Gullit ha detto, chiaramente ha condannato quanto accaduto a Roma in occasione di Roma Feyenoord e ha auspicato che la federazione olandese possa trovare una soluzione rapida ed efficace per il problema Hooligans, anche se poi ha sottolineato che i problemi sono stati creati agli incidenti soprattutto da chi il biglietto per la partita non lo aveva. Detto sì, questo, se anche pagassero i danni non sarebbe malissimo, ah, beh, certo, eh. Se mettessero 2 euro non sarebbe malissimo, i loro 2 euro sì, farebbe cosa gradita a tutti. Franco, partiamo magari da qui, ecco, se la federazione olandese facesse questo buon gesto, Sì, ma qui obiettivamente bisognerebbe far intervenire l'UEFA, perché come dire, di spontanea volontà nessuno tira fuori i soldi. Però se passasse questo principio che in casi come questi la federazione ha l'obbligo di risarcire i danni quando questi danni sono diciamo commessi in maniera evidente e solare da parte dei propri tifosi, probabilmente avremmo anche come dire, una sorta di protocollo internazionale da applicare anche in future situazioni. Ecco, insomma, chi vuol capire capisca, speriamo che lo capisca soprattutto e intenda il presidente UEFA Michel Platini. Tornando al Milan, sottolineiamo spesso i difetti, invece oggi qualcosina di buono magari si è visto. Cosa ti è piaciuto di più in questo Milan che comunque insomma ancora malaticcio è? Sì, mi è piaciuto un po', diciamo, intanto il sistema di gioco, che credo che funzioni molto meglio rispetto a quello precedente. Mi è piaciuto di come ha funzionato un po' la qualità del centrocampo, perché avere e non avere Montolivo fa una bella differenza. Mi è piaciuto come sono intervenuti dalla panchina sia Pazzini che poi più tardi anche Cerci. Insomma, mi sono piaciute alcune cose. Naturalmente questo, se si trattasse di un malato, il Milan non è da considerare ancora fuori pericolo, ecco. Inzaghi sì, però lo possiamo considerare fuori pericolo a tempo determinato, sì, conferma punti, ha fiducia. Oggi si è visto anche il modulo che piace a Berlusconi, si è visto niente, proprio per evitare problemi, no? Si è visto pochissimo, si è visto pochissimo Milan, sì. Possiamo considerare almeno lui fuori pericolo, Dario? Beh, direi che quantomeno Inzaghi guadagna tempo, no Franco? Un Inzaghi definitivamente fuori pericolo con questo, o comunque direi rimane decisamente sotto esame, no? Sì, no, più che sotto esame, diciamo che per il momento allontana il rischio di una clamorosa svolta, ecco, e quindi mantiene il possesso della panchina. Speriamo che, diciamo, con il recupero dei giocatori migliori nettamente la fattura del gioco, perché è quello poi il nodo centrale da sciogliere. Intanto si sono visti anche due o tre buoni interventi in difesa oggi, forse il pacchetto arretrato, complice anche un Cesena, certo, non trascendentale davanti, però abbiamo visto Bocchetti, Antonelli, Bonera, Rami, di volta in volta puntuali su alcune chiusure, propositivi, qualcosina, no? Un po' meglio delle altre volte, ma credo che la differenza la facesse anche l'avversario, ecco. Sì, diciamo che la parola chiave è qualcosina, che credo sia la sintesi del pomeriggio di San Siro. Grazie Dario. Ciao Dario, a dopo. Grazie anche Franco Ordine, a dopo. 800 24 00 24, c'è chi ci scrive: la tifosa della Juventus, ascolto questo primo quarto d'ora di trasmissione con le dita perennemente incrociate. Ma perché? Ci sono tifosi della Juventus che temono l'incrocio di lunedì. ma la scaramanzia va bene, siamo in questo paese, abbiamo perennemente le mani da qualche parte, però cioè, siamo onesti, non è tanto la questione della marcia del Ventus, anche venerdì non ha giocato una partita brillante con l'Atalanta, poi capiremo con il Borussia Dortmund quanto c'era di quel pensiero nella partita grigia e difficile contro l'Atalanta. Però onestamente è una Juventus che corre da sola, perché questa Roma non va da nessuna parte e io continuo a credere che non arriverà neanche seconda. Sì, a questo punto il Napoli è lì, sale meno 6 in questo momento, ma deve recuperare una partita. Massimo da Rimini. Buonasera. Eccoci. Buonasera, mi sentite? Prego. Ecco, io innanzitutto vi ringrazio e vi faccio i complimenti, questo è doveroso. E dopodiché volevo pensare a voce alta con voi e fare una riflessione. Cioè sì. Noi abbiamo dei calciatori in Italia che dopo una partita diciamo che sono dei gran campioni, degli allenatori, vedasi anche io simpatizzo per Garcia, però dico, è possibile che alla fine abbiamo degli allenatori che oggi con le giuste squadre, forse anche gli stessi italiani, con questo non sto facendo distinzione ovviamente che siano italiani o meno, ma io mi chiedo e chiedo a voi se è possibile che abbiamo degli allenatori un po' sovravvalutati come gli stessi calciatori. Garcia è sopravvalutato, cioè questo è la provocazione, il concetto? Ma io ribadisco, io simpatizzo tanto per lui, però mi dà l'impressione che in questo momento di fronte a dei risultati sia un buon allenatore, ma non un allenatore da scudetto, mi dà questa impressione. Sì, detto che non è stato giudicato bene per una sola partita, ha fatto una stagione, quella scorsa, da record per la Roma. Adesso secondo, cioè, quindi è chiaro, ha avuto le attenuanti generiche, ha avuto un sacco di infortuni. Continuo a pensare che alla fine, quando le cose cominciano a non andare bene, la Roma rimanga un po', e qualunque allenatore, non solo Garcia, rimanga un po' prigioniero dell'equivoco Totti, cioè un giocatore molto condizionante per l'opinione pubblica, per l'importanza che ha, per la forza che ha e tutto quanto. In settimana Sabatini ha detto l'ultimo mercato l'ho sbagliato, e Sabatini è un fuoriclasse del mercato e a Roma lo sanno bene, però per tempi e modi questo mercato è stato sbagliato, evidentemente è andato in confusione anche lui. Sì, è la prima volta che vengono messi in discussione i pilastri di questa Roma, quella che l'anno scorso aveva fatto una stagione miracolosa. Samuele da Parma. Samuele è caduto a proposito di Parma, oggi non c'era la partita, ma circa 1000 persone si sono ritrovate fuori dallo stadio Tardini per cercare di manifestare contro chi ha portato il Parma sull'orlo del fallimento, cori contro Tommaso Ghirardi, Pietro Leonardi, contro l'attuale numero 1 Gian Pietro Manenti, tutto si è svolto nella massima civiltà. Da domani cercheremo di capire se il Parma potrà essere riportato in campo. Giovanni, è sportivamente incivile che si arrivi ad una situazione di questo tipo, semplicemente questo, quindi è chiaro qual è il destino del Parma, cioè non ci sarà nessuno di serio che comprerà questa società con quasi 200 milioni di debiti, porteranno i liberi in tribunale, si vedrà come arrivare alla fine della stagione in un clima totalmente farsesco e deleterio per il nostro campionato. Abbiamo fatto un'ennesima figuraccia di fronte a tutta Europa, e poi porteranno in libro in tribunale qualche imprenditore di buona volontà, recupererà il Parma sanato come altre volte è successo. Sì, nel massimo italiano. Obiettivo tenere la Serie B. C'è Mimmo Di Carlo ai microfoni di Sky Sport, mi pareva abbastanza perplesso sul rigore che ha chiuso la partita. Di Carlo, tecnici dei singoli, però fate una partita sì, una no, ecco, bisognerebbe farne due almeno di media entità. Ma sì, sicuramente il problema è che quando giochi contro la Juve spendi molte energie, bisogna ricaricare, e oggi abbiamo fatto molto meglio il secondo tempo, quindi la squadra ha reagito bene, sono contento, anche se poi questo rigore ha fatto sì che di prendere il secondo gol, che secondo me non meritavamo, perché loro hanno fatto due ripartenze e non mi ricordo nient'altro, mentre noi abbiamo avuto anche il secondo tempo le due o tre occasioni per pareggiare la partita, anche ad andare in vantaggio sinceramente, ma ripeto, l'atteggiamento della squadra, a parte i primi 20 minuti che non siamo riusciti a essere in partita subito, sbagliando secondo me soprattutto in mezzo al campo, non accorciavamo in avanti, e stare all'indietro significa sempre far girare gli altri, l'abbiamo pagata a caro prezzo. Però il Cesena nel secondo tempo ha dimostrato che c'è, che lotta e che domenica prossima riproverà a ripartire, anche ben sapendo che in queste due partite noi abbiamo premiato 0 punti e ne abbiamo fatto uno, speriamo di farne almeno due o quattro, però siamo nella nostra tabella, siamo già in vantaggio di un punto. Sì, la tabella del Cesena dice però che ha 7 punti dalla zona salvezza. È dura. È una squadra viva, ma non ha tutta questa qualità. Anche oggi a Milano si è visto. Può discutere su quell'episodio che ha chiuso la gara, però non è stato un Cesena in grado di far male a un Milan che ha veramente anche oggi è stato veramente poca cosa, cioè non vedo grandi differenze tra questo Milan e quello che ha pareggiato con l'Empoli. Sì, c'è chi scrive il Milan non ha giocato male ma va considerato che aveva davanti il Cesena, anche questo è vero, era bastato l'Empoli, squadra certamente più organizzata, per portarsi via da San Siro il risultato l'altra settimana. Samuele da Parma, Samuele. Buonasera, io volevo solo commentare, aggiungere qualcosa delle notizie sul Parma Calcio, che probabilmente il buco sarà più grosso e la truffa di quello che si sta vedendo, da quello che si legge. Era una manifestazione oggi lei? No, non c'ero, ero fuori Parma, tra altre cose ero a Roma. Però l'unica cosa che è quello che dispiace è senz'altro vedere come nel mondo del calcio ci siano probabilmente affaristi senza scrupoli e truffe, ma perché è un mondo ghiotto. Diciamo che è quasi impensabile che ancora ci sia qualcuno come il nostro sindaco che in modo così, ma di dire ingenuo è poco, crede in questo passaggio che io leggevo oggi è probabilmente un solo ritardare l'intervento della magistratura, cioè, per vedere veramente l'idea di pilotare il fallimento grosso. L'idea di pilotare il fallimento. No, sì, sì, però Samuele, sono anche cose che sono consentite dai regolamenti, il Parma non sarebbe il primo e probabilmente consentirebbe a prezzi umani di mettere insieme una cordata, di salvare almeno il titolo sportivo in Serie B, ovviamente si parla perché la retrocessione del Parma è già scritta, ma avremo tempo per parlarne perché ripeto comunque oggi non è stata una bella domenica per il nostro calcio, tra partite che non si giocano perché mancano i teloni, partite saltate per le questioni che conosciamo del Parma. 800 24 00 24, aspettiamo anche Inzaghi. Buonasera, dicono che io paghi ancora 15.000 euro alla Minetti e tutti a gridare allo scandalo, nessuno si scandalizza invece per i milioni che spendo per Mexes, per Muntari e per gli altri giocatori. Sapete cosa vi dico? Sono spesi molto meglio quelli per la Minetti. Si ricomincia. Tutti convocati. I tifosi e penso anche i giocatori ci stanno a vedere tutte le soluzioni finali, anche quelle più spiacevoli. Cioè il fallimento. Però serve chiarezza per avere anche la possibilità di andare in continuità, di rilevare il titolo. Non parliamo mai dei lavoratori, perché i lavoratori che non vedono lo stipendio certi da un anno hanno diritto a garanzia o comunque a chiarezza per organizzare il proprio futuro. Sai cosa c'era scritto oggi sulle cancellate dello stadio Tardini, Carlo? Chiuso per rapina. Tra le varie cose. Chiuso per rapina. 800 24 00 24, questo era il sindaco di Parma Pizzarotti, che sta lavorando per quel fallimento pilotato che potrebbe essere la soluzione per salvare almeno l'anno prossimo la Serie B. Saluto Alessandro Vocalelli, Corriere dello Sport. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a voi ascoltatori, ciao a tutti. Ti leggo Garcia pochi minuti fa su Totti e su quel labiale al momento della sostituzione con Dumbia, che Totti evidentemente non ha gradito. Ha detto Garcia: è ovvio che uno che esce vorrebbe continuare la partita, il capitano è uno di questi, nel rispetto delle scelte dell'allenatore non si devono cercare problemi dove non ci sono, anche perché la Roma di problemi ne ha. Alessandro. Ma si capiva chiaramente, lui ha detto chiedete a Totti, e Totti ha detto quello che pensa, perché si è capito dal labiale che dice aspetta un attimo, non è il momento di fare il cambio, anche perché ormai questa storia che in qualsiasi partita, in qualsiasi situazione, con qualsiasi risultato debba uscire Totti, a me francamente sembra una cosa col pilota automatico, anche perché poi finisci la partita con Ljajic, Verde, Gervinho, Dumbia, che francamente ne combinano tutti insieme, a parte il giovane Verde che non c'entra niente, meno di Totti, che comunque almeno risolve la partita. Fategliela finire una partita a Totti. Sì, perché oramai esce il minuto numero 65. Sì. Sì. Sembra quasi che rimettano l'orologio quel momento di uscire Totti. Senti, ma direttore, è un po' prigioniero di Totti o del tottismo Garcia in questo momento? Come è successo a molti altri allenatori quando le cose non vanno bene? Assolutamente no, questa è una squadra che anche senza Totti, che nell'ultima partita non c'era, non riesce a fare risultato. È una squadra che ormai gioca con una lentezza esasperante. Con una volta la bravura dei giocatori della Roma era quella di partire e di andarsi a cercare il pallone in profondità, adesso lo vogliono tutti sui piedi, tutti il pallone sui piedi. Insomma, francamente Totti è l'ultimo dei problemi della Roma. Comunque è finito il campionato, no? Sono pochi dubbi su questo. Credo che per la corsa scudetto al 99%, diciamo, il calcio è chiaro che ti riserva sempre qualche sorpresa, però diciamo che con 9 punti sono tanti, penso che Roma-Juve diventa una partita per la Roma più per fare attenzione e cercare dei punti per difendere il secondo posto piuttosto che per attaccare il primo, da un punto di vista aritmetico dice questo. Quindi ha ragione Garcia, l'ha detto ieri, è inutile che stiamo a pensare al primo posto, noi oggi dobbiamo giocare per difenderci dal Napoli. Aveva anche detto è il modo migliore poi per provare ad attaccare il primo posto della Juventus, evidentemente non ce n'è più. Mi chiedo tra Feyenoord Roma e Roma Juventus su cosa convenga concentrarsi in questa settimana decisiva. Garcia è in confusione dialettica dall'inizio dell'anno, perché ha cominciato dicendo vinciamo sicuramente lo scudetto, siamo più forti e vinciamo sicuramente lo scudetto, e poi a un certo punto cambia idea, poi ricomincia a riparlare di scudetto, vince una partita dopo il Cagliari e dice siamo fuori dal tunnel, si ripara di scudetto, pareggia una partita, pensiamo al secondo posto, affronti Bayern e Roma che secondo me è stato il momento più preoccupante e dice speriamo di prenderne pochi, siamo qui per perdere, proprio quasi in sintesi diceva, che è una cosa che io non ho sentito dire mai a un allenatore, per cui Garcia è sicuramente in una grande confusione tecnica e anche, diciamo così, appunto comunicativa. Per quanto riguarda le prossime due partite, ma la Roma teoricamente dovrebbe avere la rosa per giocarsele tutte e due, perché se si trova costretta a fare la scelta rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano, per cui deve andare a Rotterdam per cercare di ribaltare la situazione e poi affrontare la Juve. Ripeto, il campionato non è che finisce con l'idea magari se poi vincere o no lo scudetto, c'è un posto in Champions League che è un secondo posto che vale quasi come lo scudetto nel calcio italiano. Sì, anche perché vale quasi come uno scudetto, stavo dando un'occhiata alla classifica per carità, probabilmente fantacalcio, ma di questo passo la Roma rischia anche di essere coinvolta nella lotta tra quelli sotto, Lazio, sì, Fiorentina, che sono lontane ma non lontanissime per una squadra che nelle ultime 11 partite ne ha pareggiate 8, pareggiare con i 3 punti equivale praticamente a perdere, però mi piace capire perché oggi tu sul Corriere dello Sport scrivi sostanzialmente c'era anche sulla prima pagina Garcia doveva riprendersi la Roma, cioè si può aprire, se il finale di stagione è questo, anche un ragionamento più a lungo termine sul ruolo, la figura, la permanenza di Garcia a Roma? Non c'è dubbio, cioè, nella vita tutti quanti chi fa il professionista è soggetto comunque ai risultati, per cui Garcia giustamente lo scorso anno grazie ai risultati ha rinnovato il contratto raddoppiando l'ingaggio giustamente, e quest'anno se le cose non dovessero andare bene credo che si discuterebbe dell'operato di Garcia, che non vuol dire necessariamente pensare di doverlo sostituire, però fare una riflessione su come è andata la stagione credo che in casa Roma lo faranno, insomma, per cui io credo che sia un momento in cui Garcia si gioca molto anche della sua non voglio dire credibilità perché è un allenatore sicuramente credibile, però dal punto di vista della sua rapporto di relazione con la tifoseria, perché oggi se senti la gente comincia un po' a dubitare del fatto che non si potesse fare meglio. Io credo che si poteva fare molto meglio di quello che è stato fatto fino adesso, perché la Roma non solo non è in corsa al momento per lo scudetto dopo e mancano ancora più di una dozzina di partite. Mancano 14 partite. Direttore, è andato fuori dalla Coppa Italia. Sicuramente il bilancio è negativo. Se stai lì ti faccio sentire in diretta Sabatini, microfoni di Sky. Bene come venivano prima, però rilevo il fatto che la squadra comunque voglia sempre proporre temi e calcio accettabili. Non ci stiamo riuscendo, non ci vengono bene i colpi e bisogna prendere atto e sperare in meglio. sente di avere delle responsabilità per quanto riguarda un mercato che lei con molta autocritica ha definito intempestivo, ma mi riferisco ad esempio oggi all'arrivo di un centravanti come Dumbia che sembra molto lontano dalla condizione. Sì, ma su questo mi son già espresso, mi pare inutile tornarci sopra. Io non ho bocciato i calciatori che sono stati presi per il loro valore intrinseco. Ho detto, lo ribadisco qui, ed è una mia responsabilità chiara, non è di nessun altro, né in società né dell'allenatore, naturalmente, di forse non aver riflettuto bene sulle condizioni possibili sia di Dumbia che di Barbo. Semplicemente è un errore che ho fatto, lo devo dire tranquillamente, poi se sarà un errore mortifero esiziale faremo i conti alla fine dell'anno. A me piace Sabatini perché ci mette la faccia, lo dico a Carlo Genta, lo dico ad Alessandro Boccalelli, lo dico anche a quelli a casa che criticano la Roma e anche in queste settimane hanno massacrato Sabatini, però è raro sentire un dirigente che va dopo l'addio della Roma, i sogni scudetto, e dice questa è la mia faccia, gli errori li ho fatti io, Alessandro. No, è bravissimo, bisogna veramente pensare che sia una mosca bianca in questo mondo del calcio, anche perché e con tutto che Dumbia e Barbo non erano magari pronti al massimo della condizione, i giocatori della Roma credo per battere il Parma o per cercare di fare una migliore figura a Verona ci sono, insomma, se c'hai Totti, Ljajic, Gervinho, Florenzi, Nainggolan, De Rossi, te li elenco tutti, Pjanic, credo che si potesse fare meglio, per cui Sabatini si prende la sua dose di responsabilità che però mi sembra infinitesimale rispetto alle responsabilità degli altri. Sì, e poi a fine anno ha detto anche lui faremo i conti. Grazie direttore. Ciao. A voi, buona serata a tutti. Ciao, ciao. Grazie ciao. Ad Alessandro Boccalelli. 800 24 00 24. Continuano a scrivere che il campionato non è finito, che lunedì potrebbe succedere qualcosa a Roma, che si potrebbe riaprire. Metti che la Roma vinca, va a 6, la Juventus, cioè rimane l'ipotesi di un suicidio sportivo della Juventus, di un crollo totale della Juventus. Francamente la vedo ipotesi non preventivabile, vicina a quello dello sbarco dei marziani, no? Non è brillante la Juventus, ma mi sembra sia in pieno controllo della situazione. Sì, intanto segnalo che Pippo Inzaghi non è ancora transitato dai microfoni di Sky. Ci fermiamo, c'è il traffico. Un cordiale saluto dal senatore Maurizio Gasparri. Adesso faccio un tweet, chiocciolina al secondo dei casi, sti cazzo di tifoso olandese di Uripari Zoccoloni, hashtag Nolerdam stracchino e pecorino tutta la vita, e dai tutti convocati. Che fine ha fatto Inzaghi? È il tema della domenica ore 17:46. Sta parlando al telefono con Berlusconi perché hai messo quello, non hai messo questo, perché hai tolto destro, perché sai come sono io dopo partita del Milan. La verità è che la partita di oggi non ha detto assolutamente niente di nuovo sul Milan che già non si sapesse. L'unica novità sono 3 punti che mantengono il Milan a galleggiare nella terra, nelle acque di nessuno, perché rimane questo il fatto: non si può parlare di una scintilla perché non lo è, non si può parlare di un progresso, di un passo avanti perché non lo è, semplicemente ha vinto contro la penultima in classifica, una squadra che farà fatica ad evitare la retrocessione in Serie B. Fabio da Udine, Fabio. Fabio? Pronto? Eccoci. Eccoci, buongiorno. Prego. Allora, intanto spero che io sono in Slovenia, che il roaming passi. È a Nova Gorica. Nova Gorica insieme con Manenti nel famoso villino. No, Venco, vabbè, comunque cambia poco. Niente, io volevo fare un paragone tra Udinese e Parma, no? E vi spiego, l'Udinese, noi abbiamo cercato in tanti modi di poter creare una squadra competitiva anche beccando 9 punti di squalifica, se vi ricordate, no? Sì. E succede questo, che veramente il mio più grosso godimento arrivare al 31 di agosto quando vedo i risultati di bilancio con un presidente che potrebbe fare per lavoro solo quello, sostanzialmente, d'accordo? Per dire che comunque ci si arriva con l'esperienza. E, allora, premesso che io non spero che il Parma si salvi, non voglio il male di nessuno, non mi voglio neanche tanto riferire al Parma di oggi, ma vorrei riferirmi al Parma di quel presidente al quale hanno trovato una pinacoteca, se vi ricordate, no? Sì. Ecco, e quindi mi chiedo, io sono partito da lontano per l'Udinese, parto da lontano anche dal Parma. Ma sì, ma non lontanissimo però quel... Fabio, se no sì, finisce la trasmissione. No, ma se non avesse avuto quel presidente un pochettino malandrino che mi sembra sia in galera, non penso proprio che avrebbero vinto qualcosa, non penso proprio che si troverebbero oggi in Serie A. Sì, ma questo non lo so perché dopo quel dopo quel presidente Parma è stato salvato da una cura draconiana e poi è passato di mano, poi ha avuto una storia, sono passati credo 10 anni dalle vicende del crack della Parmalat e secondo me il Parma è rimasto per suo merito e in maniera assolutamente dignitosa in Serie A in questi 10 anni. Certo è che non è stato capace di costruirsi un suo cammino economico. Beh, certamente non è stato ben amministrato, questo lo raccontano i bilanci. Questo non è stato, è evidente che non è stato correttamente amministrato e oggi peraltro, leggetevi pagina 42 Corriere della Sera, c'è un articolo titolato "Controllori distratti o assenti alle radici della farsa del Parma". Ci sarebbero anche in teoria degli organi incaricati di sovrintendere alla legalità delle situazioni e delle operazioni. Io vedo grandissime responsabilità da parte della Lega Calcio in questa situazione. Sì, era fatto un comunicato di 3 pagine per dire che responsabilità non ci sono, le regole ci sono, erano state perfettamente rispettate dal Parma, fatto sta che oggi stiamo lì a vedere. Stiamo ragionando sulla possibilità del Parma di chiudere o meno questa stagione, che è comunque una stagione falsata. Chi è? Pronto? Complimenti vivissimi per la trasmissione. Un altro dei grandi protagonisti di questa settimana. Si perde, sì. Volevo solamente ribadire che io sono troppo intelligente per essere razzista, però senza tutti questi giocatori di colore in campo il Milan contro il Cesena oggi avrebbe dilagato ulteriormente. Sì, ma oggi c'era De Jong, Rami, che è un giocatore africano, ha giocato bene. Sì. No? Guardi, sì, ma sì. È troppo business. C'è troppo stress da Champions. Sì, ma quale Champions? Champions di chi? Vuole dirlo che si è espresso male l'altro giorno sulla storia dei giocatori di colore? Di Capuano, lo dico anche a gente. Sì. Io non rispondo. Ma come non risponde? A volte un bel tacer non fa. Sì, lei non risponde, è un po' reticente. Guardi, se incomincia subito con gli insulti, con le strumentalizzazioni, i populismi, non si trippa per ratti. Sì, per gatti. Gatti. Sì, per sempre, gatti. Sempre roditori sono. Sì, come no. Non faccia la punta al gol. Allora, lei ha detto ci sono troppi giocatori di colore, ha visto la partita dell'Inter al Viareggio e non è stata una cosa bella. Io sono troppo intelligente e non posso essere razzista. Ho avuto Rijkaard e ho avuto Gattuso. Sì, Gattuso. Ha avuto Gattuso nel Milan. Ma a parte che Gattuso comunque non è straniero, guardi, non è di colore. Guardi, è meridionale ed è ancora peggio. Sì, andiamo bene. Benissimo, perfetto. Ripeto che non sono razzista perché ho troppa materia grigia. Ho avuto Rijkaard, ho avuto Galli e Colombo. Che non c'entrano nulla, no, Galli e Colombo. No, invece c'entrano, testimoniano che non ho preclusioni nei confronti degli animali. Sì, è contento che sia d'accordo con lei Salvini, che ha detto che ha ragione a parlare. Io rispondo in questo modo, io sono troppo intelligente. Sì. Le opinioni politiche sono come le palle. Sì, cioè? Ognuno ha le sue. Arrivederci. Con tanti saluti alle melanzane bicazzute. Sì, il nostro Andro Mercù. Sentiamo Pioli, i microfoni di Sky. Mentre io non so se avete la sigletta di Chi l'ha visto. Perché per io cosa? Sono incuriosito. Dov'è finito Pippo Inzaghi? Sentiamo Pioli, sta parlando i microfoni di Sky. Telefono. È molto importante, grande voglia di soffrire, grande voglia di lavorare. Tutti che lavorano per cercare di attaccare la porta avversaria, tutti per cercare di difendere la propria. Quindi c'è soddisfazione sapendo che è questo atteggiamento che ci sta dando sicuramente delle situazioni vantaggiose, sapendo che il campionato è ancora molto lungo, molto difficile, i nostri avversari sono molto forti, quindi ci sarà da soffrire fino alla fine per centrare il nostro obiettivo, che è chiaramente quello di tornare in Europa. Visto che il mio riferimento al modo di esultare non era casuale, le chiedo come sta Candreva, perché insomma probabilmente possiamo anche vedere le immagini, il giocatore per festeggiare il gol che poi ha dato la vittoria alla Lazio, insomma andando sotto la curva si è anche infortunato al ginocchio, ha preso una botta, insomma le chiedo come sta Candreva. Innanzitutto devo dire che è stato giustissimo da parte dei miei giocatori andare a festeggiare con i nostri tifosi, perché se la squadra ha messo in campo un grande spirito, i nostri tifosi hanno fatto altrettanto sostenendoci e incitandoci fino alla fine. Poi dopo, vabbè, insomma, sono cose che possono capitare, il terreno era scivoloso, ci sta, ma insomma, succede, ma l'importante, che non, l'importante è che abbia fatto gol e soprattutto che non si sia fatto niente di grave. Chi l'ha visto? Se avete notizie di Pippo Inzaghi, siamo qui, 800-24-00-24. Nella pancia di San Siro. No, veramente, sono incuriosito, non preoccupato, ha vinto. Pensa se avesse pareggiato o perso, saremmo qui a fare chissà quali congetture. Comunque non succede che si esulti schiantandosi contro la grata della curva nord dell'Olimpico della Lazio. Carissimo signor Pioli. Sì, no, non è normale. Pensare che... Va bene, la felicità, l'esultanza, Candreva gol meraviglioso, molto importante, battere Palermo non era facile, però state dentro al campo, evitate di prendere i cartellini gialli, forse è un atteggiamento che al di là dell'adrenalina può essere un pelo più intelligente sportivamente. Perché Candreva ha fatto un gol bellissimo. Poi è corso sotto la curva, è scivolato sul cemento e si è letteralmente schiantato. Poi vedremo cosa si è fatto, ma di sicuro non si è fatto bene. Leggo la classifica della Lazio, quarta a quota 40, in questo momento -2 dal Napoli, che però domani gioca col Sassuolo e quindi potenzialmente può salire a +5. Secondo me Pioli, quando dice il nostro obiettivo è rientrare in Europa e si riferisce all'Europa League, sta stretto. Sì, io ti dico, Roma, Napoli, Lazio sono tutte in lizza, per anche la Fiorentina ci metto, che in questo momento sta viaggiando davvero forte. Io credo siano tutte in lotta per quella seconda posizione, perché sinceramente non riesco a capire come la Roma possa invertire la tendenza. Anche qui è come per il discorso parallelo a quello del Milan, non ci sono segnali di un'inversione di tendenza. Scrive un amico: il Milan avrà un'ora di recupero di geometria in vista degli esami di giugno, dopo la questione delle rette parallele, e quell'ora la fanno la domenica alle 17. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Siamo contenti, ma insomma non abbiamo fatto nulla, bisogna andare avanti, dobbiamo dare continuità ai nostri risultati. Io ci tenevo che vincessimo una partita giocando anche un buon calcio, perché ai ragazzi ritornasse un po' di fiducia. Secondo me oggi usciamo, oltre alla vittoria, comunque con fiducia, e questo ci potrà aiutare. Chiaro, non abbiamo fatto nulla, dobbiamo vincere 2-3 partite a fila per rimetterci in pista, però penso che con questa voglia, con il recupero anche comunque di giocatori importanti, si possa fare. Ecco abbiamo Milano, ritrovato Pippo Inzaghi, 800-24-00-24. Sì, anche gli amici da casa hanno fatto le loro segnalazioni e alla fine eccolo qui. Abbiamo trovato anche per Luigi Pardo. Ciao Pier. Ciao Pier. Come va? Bene, dopo aver visto Candreva schiantarsi sulla grata della curva nord e Pioli dire che va bene così, direi che pomeriggio è fatto. Diciamo, qua avevo avuto paura che non si giocasse più, perché tra il rinvio di Parma Udinese e la partita sospesa ieri, tornati, ho detto ma che succede qua? Insomma, ho controllato le previsioni meteo a Firenze stasera, mi sembra che insomma si sia giocato. Se può fare, se può fare. Sì, questa è una giornata particolare, spalmata su venerdì, sabato poi è saltato, domenica, sabato, lunedì, saltato, martedì, domenica ne è saltata un'altra. No, 5 giorni se tutto va bene, in attesa di capire quando ci sarà Parma-Udinese. A proposito, poi abbiamo modo di parlarne, vi leggo l'ultima dichiarazione di Tommaso Ghirardi, del quale si sono perse le tracce, a proposito di chi l'ha visto, sì. Oggi ha detto: ma quali debiti, io invito a leggere i bilanci, sono stufo di sentire queste sciocchezze, non parlo da un paio di mesi, sono addolorato per quello che sta succedendo. Così parlò oggi Tommaso Ghirardi. Pier. Beh sì, Ghirardi dice che almeno insomma, mi ha detto che non poteva parlare un paio di settimane fa, quando siamo sentiti perché gli avvocati gli consigliavano di non farlo. Lui dice che la gestione, fino al momento nel quale era stata fatta questa, la cessione a Tashi, era una gestione sana, o comunque insomma quindi ancora risolvibile. Quindi Pierino, fammi capire, da Tashi in poi si sono persi 197 milioni? Non posso, sento di aver detto questa cosa, cioè comunque il punto di vista di Ghirardi, quando lo vorrà scrivere, sì, lo scriverà. Ecco, diciamo che lui sostiene per esempio che i dipendenti siano stati pagati tutti fino a quando poi lui è andato via a novembre, e che di fondo lui ci sia rimasto male perché aveva firmato un atto di cessione che non si è poi concretizzata perché il compratore è sparito. Ecco, detto questo, dopo una due diligence fatta, questo è quello che si fa, che si apprende dagli agenti, sì, diciamo, pro Ghirardi. Poi quando vorrà parlare, ovviamente, per chiarire meglio il suo contesto, non ci sono, ovviamente lo ascolteremo, sì, saremo qui ad ascoltarlo, perché la quantità di debiti è talmente grande che insomma è difficile pensare che tutto sia nato in pochi mesi o addirittura in poche settimane. Sì, c'è anche chi scrive, un amico da casa, secondo me anche correttamente, ma voi pensate che le società di Serie A accetteranno che Lega e Federcalcio pilotino il fallimento del Parma? Anche questo è un tema, perché poi evidentemente si farà di tutto per salvare almeno il diritto sportivo del Parma, no? Però ci sono anche le altre. Adesso bisogna capire che cosa succede, cosa facciamo? Togliamo il Parma dalla Serie A perché non hanno neanche il becco di un quattrino per organizzare le partite, e allora è chiaro che è un campionato falsato, perché siamo nel girone di ritorno, c'è chi ha dato, c'è chi ha preso, l'Inter, la Roma, chi ha perso punti con il Parma, adesso cosa facciamo? Lo togliamo? Non si può fare. Il problema vero è che è stato il silenzio colpevole degli organi che avrebbero dovuto garantire la regolarità di questo campionato. E il primo nome della lista è la Lega Calcio. Dai, ragazzi. Sì, il comunicato, poi abbiamo tempo di parlarne. Il comunicato ieri, insomma, l'hanno letto un po' tutti. Sta parlando Sarri. Oggi ho visto un gol meraviglioso dell'Empoli. Quando si dice la preparazione di un gol su calcio d'angolo, come si può costruire un modulo? Mi piacerebbe invece sapere da te, Pier, se lunedì è gita Roma per i tifosi della Juventus. Sai che già l'anno scorso avevano creato l'hashtag gita Roma per la partita, l'ultima giornata di campionato finito. Gita. Ma secondo me non è gita Roma, nel senso che diciamo che la Juve al 90% vince il campionato, e in questo momento forse siamo 5 alla Roma e 5 al Napoli, nel senso che, però mancano ancora molte partite, ci sono 9 punti. Lo scontro diretto può essere importante. Se la Roma dovesse vincere lo scontro diretto, non saprei dirti come, sinceramente, in questo momento, ma se dovesse vincere lo scontro diretto e andare a meno 6, a quel punto, magari con lo scontro diretto a favore, 6 punti a 13 giornate dalla fine è tutt'altro che un campionato. Sì, il problema è che mancano i fondamentali. Serve un suicidio sportivo della Juve, sì, Pier. Cioè, la Juve che perde 9 punti, io non ce la vedo. La Roma mi sembra un discorso abbastanza parallelo a quello del Milan. Cioè, non vedi segnali di ripresa, Pier. La Roma è in rottura prolungata e l'unica buona notizia è che, come dicevo l'altro giorno, nessuna la mette sotto, secondo me, o meglio, è un calo di condizione che è più nel non riuscire a fare la differenza contro le squadre piccole piuttosto che essere clamorosamente dominata. Quindi secondo me, per esempio, a Rotterdam ha delle possibilità, anche se chiaramente il fatto di dover segnare in questo momento la riesce molto difficile, le impone di giocare una partita offensiva fin dal primo minuto, che potrebbe essere un boomerang. Detto questo, io vi chiederei, insomma, la cortesia di aspettare 8 giorni, nel senso che comunque lo scontro diretto non è fra un mese, lo scontro diretto è adesso, e tra una settimana ci siamo tolti il dubbio. Tutti i segnali vanno chiaramente in una direzione favorevole alla Juve, quelli psicologici, quelli fisici, quelli tecnici, ma il pareggio col Parma, a proposito di campionato falsato e non falsato, al di là del fatto che se quella scadenza del 16 febbraio fosse stata del 13, probabilmente il Parma non si sarebbe presentato al Milan Olimpico, però la Roma in quella circostanza lì, contro un avversario semplicemente ordinato, a buttarlo via 2 punti incredibili. Ma guarda, ma anche oggi è una squadra che tiene la palla, che prova a pettinare il gioco, ma non fa paura, cioè basta una difesa minimamente organizzata per non correre rischi. Gennaio, ragazzi, è stato il mercato dell'estate, è stato a questo punto non brillante. Il mercato di gennaio è stato... L'ha messo Sabatini. Sì, l'ha messo Sabatini, ci ha messo la faccia. Ha detto, ho sbagliato sia dal punto di vista della tempistica, sia evidentemente nella scelta di giocatori che non erano in condizione di dare subito qualcosa a questa Roma. 800 24 00 24, per sapere se anche voi ritenete quella di lunedì una gita della Juventus a Roma, o se invece pensate che in fondo ci sia ancora un barlume di campionato cui aggrapparsi. Siamo soltanto al 22 febbraio, eh? Siamo solo al 22 febbraio. Ma sono orgoglioso di essere italiano e mi fa venire i brividi pensare al barcone di Bonucci devastato a Roma, in Piazza di Spagna, dalla furia dei tifosi olandesi. A barcaccia di Bernini. Ah sì? Tutti convocati. Sì, ecco qua, facciamo la telecronaca del ribasso che Rocchi adesso sta verificando, è peggiorato rispetto a 20 minuti fa, non c'erano quote, si chiude qua la serata secondo me. Uscendo dal campo ha detto una cosa molto importante, ha detto non capisco perché non siano stati messi i teloni sul campo. Vi siete dati una spiegazione nello spogliatoio? Ma forse secondo me perché non si aspettavano nemmeno tutta questa pioggia. Il campo a Genova, insomma, si sa adesso ultimamente era anche migliorato. Italia sì, Italia no, Italia boom. La strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Io arrivo sempre di solito un'ora prima allo stadio e vado via 10 minuti dopo la partita, per cui non mi occupo proprio di cose tecniche, quindi non saprei come rispondere. Mi dispiace che comunque si sia verificata questa situazione, ma non credo che i teloni, dato il tempo, avrebbero comunque permesso. Sarebbe stata una gara interrotta comunque. Il comando non ci sta e allo stadio se ne va sventolando il bandierone, non più il sangue scorrerà. Acquistare una squadra di calcio in una situazione difficile come quella del Parma Calcio, su cui del passato vorrei poi un minimo parlare, e non avere chiaro che arrivano soldi dall'estero, servono delle tempistiche, servono delle garanzie, serve un'organizzazione, io penso che sia il minimo, cioè non si sta acquistando una salumeria in un qualche paesino. Ti devo una pinza, ce l'ho nella panza. Continuiamo a lavorare in funzione di una società che amiamo, che vogliamo bene, perché soprattutto vogliamo bene anche i ragazzi. Ci sono dei buchi, ma ci sono anche delle persone e dei giovani che vogliono avere un futuro, e quindi io dico, speriamo che si muovano le istituzioni, speriamo che qualcuno dia un po' di serietà a tutto questo. La partita con l'Udinese. Penso che non sia rischio nulla per domenica. Io penso comunque l'ordinario lo portiamo avanti sicuramente, anche perché non avrebbe senso. No, che non avrebbe senso, così come ha avuto poco senso questo fine settimana. Saluto Ruggero Palombo, vice direttore della Gazzetta. Ciao Ruggero. Buonasera a tutti, ex vice direttore, editorialista. Campionato dei cachi, non la terra dei cachi. Temo di sì. Insomma, tra quello che visto, insomma, questi flash che avete fatto tra la storia di Parma e quella grottesca di Genova, dove insomma c'è un'alluvione via l'altra e non pensano a mettere i teloni, è veramente un po'. Sì, non pensano neanche a pagare. Un calcio italiano che fa cascare abbastanza le braccia. Giorno non pensano neanche a pagare i debiti, però mi pare di leggere, no? A Genova. Questo è il caso soprattutto di Parma. Adesso la questione dei debiti di Marassi, sì, l'ho letta anch'io sui giornali. La storia di Parma la conosco abbastanza bene perché oggi ho dovuto trattarla. Quella di come funzionano i pagamenti di Sampdoria e Genova con lo stadio di Marassi l'ho letta solo sui giornali. Sì, perché c'è questo paradosso per cui il Parma ha fatto tutto secondo le regole. Quindi forse ha ragione anche la Lega che ha scritto quel chilometrico comunicato ieri. Anche oggi hanno scritto alla Lega, c'è un comunicato comunicato sulla questione dei teloni dello stadio Marassi, dove sostanzialmente, faccio il riassunto, si dice i teloni ci sono perché così impone la normativa, non sono stati tirati ma tanto non sarebbero serviti perché c'è stato un nubifragio e di solito vengono ritirati un paio di ore prima, e comunque sia a fine anno noi costringeremo i gestori dell'impianto di Marassi a rifare tutto l'impianto, il sottofondo, il sistema di drenaggio. Possono scrivere miliardi di comunicati chilometrici, no, cronaca, sono due partite cronaca che non si sono giocate, una magari non si sarebbe potuto giocare perché diluviava, questo non possiamo saperlo, non abbiamo la controprova eccetera, l'altra partita invece non si è giocata per cause ben note. Pier, prova a immaginare un extraterrestre che oggi avesse in tasca 100 euro da investire sul calcio italiano. Sì, beh, sì. Bisognerebbe tutto ringraziarlo. E Rick Tuir, no? alla fine ogni notte poi ha un'alba, e quindi è chiaro che qualcuno poi verrà. Insomma, l'Italia ha ancora dei valori, che sono dei valori, diciamo, di tradizione, di storia, di bellezza, un po' quello che Elio magistralmente dice nella sua canzone, no? Se famo tu spaghi, cioè comunque questo è un bel per certe cose è un bel paese in cui vivere, che ha delle cose quasi inalienabili. Adesso se ci cominciano a distruggere pure le fontane e le piazze diventa più complicato, ma insomma quello che è successo è incredibile. Insomma, la dichiarazione di Palombo, credo, che diceva, per carità, non c'era niente da fare, il comunicato degli steward, dei responsabili, è sempre così, no? Vabbè, tanto, ma chi poteva aspettarsi un nubifragio del genere, no? È come quando in maniera molto più tragica ci sono le alluvioni che costano anche vite umane, no? Chi poteva immaginare una roba del genere? Per carità, le tragedie ci sono anche in altri posti del mondo. Noi, diciamo, non siamo i re della programmazione, abbiamo altre qualità, questo non c'è dubbio. Sì, noi siamo specialisti, Ruggero, quelli però, che si muovono dopo. È il discorso però, che possiamo mettere insieme. 10 secondi è che il calcio assomiglia in questi anni sempre di più a un'azienda, a un business, a qualcosa di strutturato, e quindi alla fine soffri, perché se poi il tuo fatturato per mille motivi è la metà di quello dei grandi club europei, e allora poi non vinci. Sì, è anche poco credibile, anche no? Per questo, fatemi sentire Ruggero Palombo, siamo quelli bravi il giorno dopo, noi. Sì, dopo. No, ma guarda, voglio dire, per carità, l'accostamento delle due situazioni ci sta, perché colpisce questa accoppiata di partite non sputate, però... voglio dire, quella di Marassi è una storia secondo me un po' di incuria, di mala organizzazione, che si consuma peraltro in una notte e che magari ci si augura non ricapiti la prossima volta, perché magari la prossima volta quei benedetti teloni le metteranno. Quella di Parma è una storia secondo me ben diversa, ben più grave. Io oggi ho scritto questo pezzo in cui dico che le regole sono state rispettate, ma l'ho raccontato come un paradosso, perché le regole sono costruite in un modo per cui se un signore ottempera a determinate cose fino al 30 giugno e dal 1 luglio si iscrive a un campionato e non c'è più una lira, un euro anzi, né di stipendi né di cose, e comincia a disputare quella stagione senza più mettere mano al portafoglio, il bubbone finisce per una serie perversa di scadenze con lo scoppiare solo a Natale, se va bene. Senti, e poi magari a Ruggero, Natale ci si mettono sopra. Ci scusa si mettono se sopra, insisto, ma da 1 a 10 qual è la responsabilità della Lega? Come quantificavi la responsabilità degli organi che governano il calcio? No, la responsabilità viene da lontano, nel senso che è una responsabilità che sui fatti più recenti la Lega non ha, ma che ha gravissima insieme alla Federcalcio di allora. Nel 2007-2008 sono quelle cose di marchingegni finanziari che magari non fanno notizie e non finiscono sui giornali, però nel 2007-2008 c'erano delle regole di ingaggio sui campionati maggiori per essere iscritti al campionato in cui c'erano dei parametri che andavano rispettati. Adesso non scendo più di tanto nelle tecnicalità, ma su pressione delle società della Lega di Milano, della Lega Maggiore, questi parametri sono stati aboliti e si è passati a una cosa che da una parte accontentava e garantiva fino a un certo punto l'associazione calciatori, perché c'era questa norma che comunque bisognava pagare gli stipendi, dovevano essere pagati fino al 30 aprile della stagione precedente per iscriversi al campionato successivo. E dall'altra aiutava massimo, i club ad avere meno rigidità. Al massimo, non mi parlate solo se no non sento, sarò brevissimo, ballavano al massimo un paio di stipendi. Ma poi c'era quest'altro elemento, secondo me assolutamente negativo, venduto a suo tempo come una grande innovazione positiva, che la ci sarebbe stata come garanzia la certificazione dei bilanci a cura di società di certificazione dei bilanci qualificate, e ciascun club pensava alla propria certificazione di bilancio e si andava via così. Solo che il gioco delle certificazioni di bilancio per un club che finisce il suo anno di gestione il 30 giugno è tale per cui anche lì le magagne esplodono 6 mesi dopo, come è stato il caso del Parma, perché adesso quel bilancio al 30 giugno dell'anno scorso del Parma non è certificato, perché la società che doveva certificarlo ci ha guardato dentro e ha trovato tale tante cose che non vanno bene che si è rifiutata di certificarlo. Però tutto questo cos'è successo? Poco prima di Natale, nel frattempo la stagione era andata, il signor proprietario del Parma nel frattempo non cacciava un euro dei 30 e passa milioni che nel frattempo dei diritti televisivi erano stati già scontati con le banche, chissà adesso dove saranno o come saranno stati buttati via, ma io penso che è più facile che piuttosto che essere buttati via da qualche parte, parte di quei milioni sarà, ma sicuramente non dalle parti nostre, e il risultato è che adesso la figuraccia la fanno tutti. Adesso si faranno sicuramente, anzi sono già in corso, norme nuove, qualcosa era stato già approvato prima di Natale, per cui tra financial fair play e controlli che saranno più attenti e più stringenti a monte e non a valle, si spera che casi Parma non ricapiteranno. Ma sì, si spera. Quella è la parola chiave, la seconda parola chiave di oggi. Poi c'è anche un po' l'impressione che Lega e Federcalcio si muovano anche per salvare le apparenze, Pier, perché comunque sarà un campionato falsato, inutile che ci giriamo intorno, anche se il Parma dovesse arrivare in fondo. Il campionato è già falsato, basti dire appunto quella cosa che dico prima, al di là ovviamente dei meriti della Roma, dei meriti della Fiorentina, dico al tassista che andiamo allo stadio, è momento di Radio Verità, dico al di là di tutto questo il campionato è già falsato. Sono dubbi, perché comunque sono 14-15 squadre che affrontavano il Parma con la certezza di vincere, perché comunque è già da un po' il Parma ha delle oscillazioni di rendimento logiche, legittime, dovute al fatto che ci sono momenti di maggiore speranza e momenti, cioè secondo me non è un caso, ripeto, al di là delle meriti della Roma l'altro giorno, che è la prima partita orrenda e non meritava di vincere perché deve vincere la partita in casa col Parma, ma il Parma l'altro giorno secondo me non è un caso che abbia giocato una delle migliori partite del suo campionato proprio nei giorni della grande speranza o comunque insomma della fiducia a tempo che veniva data nei confronti di Parenti. Questo è un dato abbastanza oggettivo, il campionato è già di fatto falsato. Detto questo, fa parte della vita, insomma è ovvio che questa area di rischio e di differenza fra una squadra ad affrontare in un momento migliore o peggiore esiste in qualsiasi campionato senza che ci sia un fallimento di mezzo, quindi è un elemento che possiamo considerare normale, però è chiaro che adesso nelle prossime 13-14 partite, se queste partite saranno giocate dalla primavera o se saranno assegnate a tavolino o se comunque verranno giocate col piede sinistro da giocatori non pagati, è chiaro che questa cosa esisterà. Sempre che non capiti quello che ha detto oggi Lucarelli sulla Gazzetta dello Sport, se ci accorgiamo che ci prendono in giro dopo 10 minuti noi prendiamo e usciamo dal campo. Lucarelli, non capitano ancora, del non hanno ancora capito. Saluto Ruggero Palombo, grazie. Ciao, Ruggero. Alla prossima, Pier, stai lì sul taxi, torniamo. La prossima volta facciamo una lettera alla Patrieterno Film dove diremo che sui derby non deve piovere. Tutti convocati. Amo solo preziosi. Solo sì, preziosi lo prenderebbe in società. Sì, società no. No. Però andarci a fare una bella serenata mi piacerebbe molto. Perché Preziosi è una grande persona. ha sta faccia così triste, però invece è uno simpatico. So slowly and time can do so. L'abbraccio del Presidente Preziosi con Ferrero, beh, al di là delle schermaglie sembrate una coppia consolidata. No, consolidata no, lo prego, non abbiamo ancora consumato niente insieme. No, però è così, io l'ho già detto, a me diverte molto il Presidente Ferrero, e poi comunque una persona nella sua così diversità è comunque una persona con cui si può parlare, per cui mi fa molto piacere averlo incontrato anche stasera. Siamo stati fortunati, Pierre. La coppia di fatto come me è Pardo da lunedì al venerdì. Potremo rivedere tutto martedì. Va bene. Sono diversi, hanno uno stile diverso. È positivo, insomma, quando c'è questo tipo di clima è sempre positivo. Poi quando c'è l'amore è bello. Sì. Sì, poi quando c'è il derby a Genova è bellissimo, perché è una partita meravigliosa. Dispiace che spesso negli ultimi anni si sia beccata questi rinvii, però è una partita incredibile. Quello stadio è tanto scomodo per certi versi, anche pericoloso, come Italia-Serbia ha dimostrato, ma dal punto di vista puramente è uno stadio bellissimo. Ma sì, ma cosa serve la partita quando poi si consuma tutto così, no? Prima e dopo. Ma si vogliono bene, ma è bello così. Ci devi promettere, Pier, che ce lo porti prima o poi Ferrero. Sì, certo. In macchina, col taxi di Firenze. Che va punto bene, sei il viaggio verso lo stadio? Questa è Piazza Libertà, questa? No, quella dopo. Però, non scherzo, Firenze, però abbiamo appena superato la fortezza da Basso, vero? Perfetto. Ah, ti sei geolocalizzato, capito tutto. Zona Pitti. Capito. Pensa che se la Fiorentina vince questa sera sale a 41, non è mica tanto lontana la Roma, col suo terzo posto, col suo secondo posto. A proposito d'amore, è una partita pazzesca, perché le tifoserie si vogliono bene, le squadre hanno grandi analogie, anche quella molto banale di avere un colore che rappresenta un colore abbastanza originale, che però insomma rappresenta lo spirito molto appassionato di tifoserie. Tecnicamente stanno da Dio, nel senso che la Fiorentina ha fatto 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 gare, forma dopo la Juve delle ultime 6 partite. Il Torino è la migliore delle ultime 10 giornate a fare merito con la Juve, quindi stiamo parlando di una partita potenzialmente oggi da altissima classifica. Poi pesano alcuni alti e bassi della prima parte della stagione, per cui non sono dove meriterebbero di stare per quello che hanno fatto vedere nelle ultime partite. Oggi la Fiorentina decide dove andare, secondo me. Sì. Si capisce dove potrebbe andare. Sì, poi sai, non dipende soltanto da te. No, questo è chiaro. Fiorentina, guarda, adesso chiaro. Paradossalmente, lo abbiamo detto, insomma, dopo il sacrificio di Quadrato, secondo me, nel mercato a gennaio, lo dicevamo un mese fa, quindi oggi facciamo i fighi e ricordiamo che lo dicevamo un mese fa. Perché tante volte ci sono dei giocatori che diventano dei totem inabili, che nell'immaginario della gente, se vengono venduti, ecco, allora è lo sfascio, vuol dire che il padrone della società vuole soltanto monetizzare, e invece secondo me della Valle questa volta hanno monetizzato, ma l'hanno fatto molto bene, con una scelta molto saggia, molto sana. Salah è un talento, Babacar sta esplodendo, Gomez si è risvegliato, Girardino non l'abbiamo ancora visto, ma se dovesse fare 4-5 gol pesanti dei suoi deve essere utile. Diamanti a classe, poi se Babacar piglia anche la patente va bene, è meglio, forse pure meglio. Un anno e mezzo, la Fiorentina ha vissuto il paradosso di un anno e mezzo con delle sfighe enormi là davanti, con gli attaccanti che stavano male, oggi ha un'abbondanza che non ha penso da anni, ed è pronta per le tre competizioni. Poi è chiaro che dipenderà anche dagli avversari. Io non vedo l'ora che sia giovedì, perché giovedì pazzesche, Fiorentina Tottenham. Sì. È una delle sfide più interessanti di quel giovedì, dove noi possiamo fare in plan, ma attenzione, perché Napoli a parte rischiamo anche di tornare a casa scornati. 800 24 00 24. Vito da Matera. Vito. Ave, buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Vi ascolto sempre. Io volevo parlare, per quanto riguarda il campionato falsato del Par, ok, tutto vero, però da parte vostra questo sempre dire che il campionato è passato per noi tifosi juventini è avvilente, nel senso, siamo lì a soffrire come abbiamo sofferto l'altro giorno per il gol di Pirlo, abbiamo vinto così. Vito, ma nessuno toglie niente alla Juventus, eh? Cioè non è questione di Juventus, nessuno toglie o aggiunge nulla alla Juventus, è il campionato complessivo, no? Sì, ok, però se noi sono stati i tifosi della Roma e tutti gli altri tifosi, naturalmente loro lo fanno per non parlare delle loro sconfitte, parlano sempre di questo, cioè sentendo anche voi che dite così, dicono allora vedi la Juve vince così. No, ma non è una questione di Juventus. Ha detto che la Juve vince così. Non è una questione di Juventus. Possiamo dire che una squadra che il 22 febbraio è tecnicamente fallita, che non è in grado di garantire l'organizzazione di una partita, dopo tutto quello che abbiamo visto in questi mesi, è una squadra che condiziona il campionato, ma non è un problema di Juve-Roma. Anzi, stiamo sostenendo che la Roma sta facendo tutto con le sue mani da un certo punto di vista, certo, e la Juve sta legittimando il suo primato. Prego, Vito. Però ha ragione Buffon quando dice che la Juve per legittimare la sua vittoria ha bisogno di 15-20 punti sulla seconda. Ma non è vero. Mi sembra abbastanza una sciocchezza. Guarda, la Juve oggi ne ha 9 e ha già ampiamente legittimato il suo essere più forte, ma anche se ne avesse avuti 7 avrebbe ampiamente legittimato il suo essere forte. Quindi Buffon dice questa cosa perché sappiamo che esiste una dinamica che piace ai giocatori della Juve e che piace ai tifosi della Juve, o magari dà fastidio e piace al tempo stesso, che è questa sindrome di avere tutto il resto del mondo contro, che è qualcosa che la Juve in maniera straordinaria ha trasformato sempre storicamente in un'energia positiva, sì, sì, per ottenere dei grandi risultati, e questo che sto facendo è solo e semplicemente un complimento alla Juve. La Juve da questo punto di vista è eccezionale perché riesce a trasformare molto meglio delle altre società e delle altre squadre le pressioni, anche le pressioni esterne, e il fatto che esistono ovviamente tanti juventini, ma anche tanti anti-juventini. Su questo Vito ha perfettamente ragione. La Juve è fortissima perché riesce a trasformare tutto, sì, questo in un'energia positiva che quasi sempre poi la porta al risultato. A patto di non cascare nelle manie di persecuzione, questa mi sembra una sorta di mania di persecuzione, cioè non la questione Parma, non stiamo dicendo che è lontanissima dalla questione Juve. L'Inter ci ha perso con il Parma, quindi sì, non è una anche la Fiorentina. Anche la Fiorentina. Vi posso far sentire un altro a proposito di qualcuno le chiama manie di persecuzione, yeah, ma che è il numero uno assoluto fuori classe, cioè. Chissà cosa direbbe in questa situazione. Did everything hinge on the sending off? Did that change everything? No. I think there are four moments of the game where you can write the story of the game. Minute 30, minute 33, minute 43, and minute 69. And don't ask me more questions because I don't answer. Well, can you talk us through the moments individually? No. Because there are people who don't know what you're referring to. Non ha risposto più fuori classe assoluto Mourinho, Pier. Ci sono minuti nei quali si desidera stare 30, 33, 43, 69, che invitiamo gli amici, invitiamo gli amici a casa a giocarseli all'otto. 30, 33, 43, 69 su tutte le ruote, così andiamo tranquilli. La ruota di Londra, ovviamente. Vedi, hai fatto benissimo a pizzicare questo contenuto. Questa è Piazza Savonarola, giusto? Sede della Fiorentina, Ci sei? Ti stai avvicinando? Ci sono. Sei. Pronto. Sono passato in Piazza Savonarola, che se non ricordo male, vecchia sede della Fiorentina, dove ci furono i tafferugli per Baggio, Siamo pezzi di storia del calcio che si intrecciano. Ah, una città ovviamente meravigliosa. No, stavo dicendo che è giustissimo piazzare Mourinho proprio a proposito di questo, perché Mourinho è un altro fenomeno da questo punto di vista. E non a caso gli interisti lo hanno amato così tanto, perché Mourinho è riuscito a trasformare il caos che si è trasmesso all'Inter, il caos anche creativo, il dibattito permanente, in un motivo di forza e di compattezza. Quando Mourinho dice il rumore dei nemici, dice qualcosa di simile a quello che dice Buffon, che ricordava l'ascoltatore, ed è una normale logica, settima chiave psicologica che grandi allenatori e grandi giocatori si danno per riuscire a fare ancora meglio. Quindi non c'è nessuna polemica. Poi no, assolutamente. Ovviamente molti anti-murignani e molti murignani, questo è ovvio, così come sono molti juventini e molti juventini fa parte delle grandi personalità, dei grandi personaggi che attirano su di sé enormi simpatie, anche di converso enormi simpatie alla vita. Non sbaglia un colpo, no. Non sbaglia un colpo. Vincerà la Premier anche quest'anno. Non c'è nessuna polemica, non c'è nemmeno nessuna possibilità, così rispondo ad Igor, che ci ha scritto che cancellino tutti i punti fatti dalle squadre con il Parma in questo campionato, perché se anche il Parma saltasse, essendo saltato eventualmente nel girone di ritorno, semplicemente prende 0-3 a tavolino da qui alla fine del campionato. Questo dicono le regole, poi se non vi piacciono senti cosa mi è anche legittimo, ma così è. Senti come mi scrive un ascoltatore via mail: il campionato è falsato da decenni, la spalmatura delle partite su 4 giorni su orari diversi lede il principio della contemporaneità da anni, le partite si possono aggiustare senza aspettare le ultime giornate di campionato. Vabbè, perché invece in Inghilterra, in Francia, in Germania, Polonia, in Romania, in Lussemburgo le partite si giocano tutte alle 14:30. Fammi salutare Xavier Iacobelli, sì, il secolo scorso. Xavier. Sì. Buonasera a voi, buonasera. Ciao, direttore. Si può parlare di campionato falsato senza mettere in dubbio il primato della Juve? Sì, sì, certo. No, si parlerebbe di campionato falsato se malauguratamente la situazione del Parma dovesse precipitare e a quel punto dovessero essere assegnate sconfitte a tavolino per 3-0 da qui alla fine del girone di ritorno, come prevede il regolamento. Sì, anche se qualcuno legittimamente si è chiesto, ad esempio, perché questa gara che il Parma non è in grado di organizzare sia stata rinviata e ad esempio non data persa per 3-0. E perché se comincia così puoi andare avanti, certo. Ma no, bisognerebbe chiederlo ai signori Beretta e al signor Tavecchio, tanto per fare nome. Vabbè, Beretta abbiamo saputo dallo Tito 2 punti e 3 virgolette che conta 0, cito testualmente. Tavecchio si è svegliato adesso. L'intervista di Lucarelli di stamane è un manifesto di come non funzioni, rilascia per la Gazzetta dello Sport, di come non funzioni il calcio italiano, perché come il capitano del Parma ha giustamente annotato, venerdì si è mossa la Federcalcio, cioè venerdì. Quando questa situazione si trascina dal 1 luglio scorso, quando dal 1 luglio scorso i giocatori del Parma non percepiscono gli stipendi, quando da 3 mesi i dipendenti del Parma non percepiscono gli stipendi, quando non ci sono 77.000 euro per pagare gli steward che consentano la regolare effettuazione di Parma-Udinese, quando vengono pignorati i furgoni della società, cioè che cosa doveva accadere di più quando ci sono stati 5 presidenti e 3 cambi di proprietà nell'arco di meno di 3 mesi? Sì, un po' di autocritica la facciamo anche noi giornalisti, che evidentemente non ci siamo accorti di tante cose, però veniamo in coda alla fila. Punto, no, giusto. Questo per rispondere anche a tanti amici da casa che giustamente dicono anche voi che cosa raccontavate. Vi chiedo però un minuto di pazienza, abbiamo il traffico. Poi volevo anche chiedervi qualcosa che va un po' in là a questo più 9 in classifica, perché martedì la Juve è attesa da un appuntamento decisivo nella sua stagione. Traffico. Lei sarebbe pronto per fare, dovessero proporglielo, il presidente della Juventus? No. Non lo farebbe mai il presidente della Juventus? No. No. No. Solo della Sampdoria o anche di un'altra squadra? Beh. Tutti convocati. Siccome la partita non è una partita secca, ma un ottavo di finale, sono 2 partite e durano 180 minuti. La cosa fondamentale è che in casa non bisogna prendere gol. E vi dico di più, se devo scegliere, siccome bisogna vincere, ma se non vinciamo è meglio fare 0-0 che 1-1, perché ci vuole molta calma e molto equilibrio nel valutare le cose. Pirlo dalla distanza, parte il tiro, rete, un gol alla Pirlo, da fenomeno, la Juve in vantaggio. Di andata e ritorno col Borussia bisogna vincere in casa, è fondamentale la prima, l'andata. Sì, la prima è la partita fondamentale, bisogna approcciarla nel modo migliore cercando di vincerla e possibilmente di non prendere gol. Recupera questo pallone e alla fine la chiude Marco Reus. Ha visto che il Dortmund stanno risalendo, terzo di fila. Quindi sarà sicuramente una bella partita. stasera è troppo importante, nessuno pensava al Dortmund, stasera è una partita che in caso di mancata vittoria davamo una grande chance alla Roma di riavvicinarsi, anche se il campionato non è chiuso, però intanto vincere stasera era importante. Ovviamente importante perché poi, come raccontato ampiamente, la Roma si è fermata. Intanto segnalo a Pierluigi Pardo che i Tafferulli per Baggio erano in piazza Donatello, non a Firenze, sì, Savonarola. Quindi non in piazza Savonarola, sembrava... ma poi magari sono spostati. No, no, mi sembrava fosse piazza Savonarola, che era la vecchia sede della Fiorentina, però e invece no. Mi sbaglio, chiedo scusa. Poi Stefano, un collega tassista di Firenze, dice: dite a Pardo di lasciare un po' di mancia al tassista. Fatto. Non avere il braccio corto come al solito, non avere il braccino, non fare il genovese. Xavier Iacobelli, allora, come arriva la Juve all'appuntamento di martedì con il Borussia? Beh, dal punto di vista della classifica del campionato, meglio di così non potrebbe arrivare, complice la frenata prolungata della Roma che non riesce più a vincere. Dal punto di vista della condizione complessiva, certo con l'Atalanta ha sofferto, peraltro era un'Atalanta senza 8 giocatori, poi durante l'incontro si è fatto male anche Stefano Costa, che è uno dei migliori in campo, però una grande squadra si riconosce anche quando riesce a vincere partite difficili come questa. E poi se tra le tue fila hai un fuoriclasse del calibro di Pirlo, beh, ancora, come dire, l'impresa diventa meno ardua. Certo che il Borussia ha 3 vittorie consecutive, adesso sta risalendo, è un Borussia che la prima parte della stagione ha dovuto fare i conti con un'impressionante catena di infortuni, ma è un Borussia che a livello internazionale l'avversario non temibile ma temibilissimo. Non avete la sensazione che ci sia qualche piccolo segnale d'allarme? Cito qua e là Juve che ha preso 4 gol nelle ultime 3 partite, comunque Pogba non sta attraversando il momento migliore della stagione, Pierre, anche Vidal, fisicamente, è più spesso un caso fisicamente non benissimo, sia contro il Cesena che contro l'Atalanta, però potrebbe essere stata anche una gestione. Certo, lo scopriremo presto. Il Cesena è riuscita a fatica contro l'Atalanta, cioè il fatto che la Juve sia abbastanza padrona del campionato non da oggi, e questo è evidente. Quindi io ho fatto la partita a Cesena per dirti, mi è sembrata, come dice Allegri, una cazzata, ecco, una sottovalutazione, un po' un calo di concentrazione che poi ha portato a perdere 2 punti. Non ho visto un crollo totale, anche se sicuramente dal punto di vista della condizione fisica le ultime partite sono state un po' meno brillanti. Sì, resta il fatto che la Juventus corre praticamente contro un avversario che si è fermato, che ha finito la benzina in campionato, mentre succede il contrario, e questo può avere un peso in Champions. Lì lo scopriamo presto. Xavier, c'è qualche piccolo segnale? Io credo che in questo momento è vero che, come sottolineava Pierluigi, sia Pogba la cui condizione è appannata, ma non si può nemmeno pensare che né Pogba né questa squadra marcino sempre a 100 all'ora, anche perché è evidente che l'impegno con il Borussia è diventato una sorta di spartiacque della stagione della Juventus e anche delle ambizioni della Juventus. Sappiamo benissimo quanto è importante la società bianconera annetta alla Champions League, non solo e non soltanto per una questione squisitamente economica. Io penso che Marchisio in questo momento sia la garanzia assoluta, insieme con lo stesso Pirlo, del centrocampo di Allegri, così come Tevez. Io mi aspetto una grande prova da Tevez, che ha segnato 14 gol in campionato, 19 comprendendo le coppe, e che certamente in una sfida come questa con il Borussia Dortmund farà valere la sua classe. Dopodiché è evidente che ci vorrà la migliore Juventus possibile. Io credo anche che la partita con l'Atalanta fatalmente non potesse non essere giocata pensando già al Borussia. È troppo importante la doppia sfida con i tedeschi. Sì, è anche legittimo che accada. Grazie Xavier. Ciao direttore. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Grazie a Xavier Iacobelli. Siamo sicuri che hai lasciato la mancia? Sicuri, Pierre? Sì, adesso non voglio entrare in dettagli. Sì, ho lasciato la mancia. Bravo. Ma perché il tema interessa. Chi è? A proposito di mancia, Dico una bella cosa. Sì. Forza Samba. Sì, però anche lei. Guardi, a me mi piace ad amico e gli farei. No, però noi stavamo parlando di braccini. A proposito, abbiamo parlato prima anche della bolletta. Bisogna pagare le bollette. Per tirare i teloni, accendere la luce allo stadio. Anche a Genova. Ma che me sta a fare super cazzo. mi sono messo pure la cravattella, sì, no, ma come Obama, sui debiti, i debiti, presidente, debiti, debiti da pagare, 2 milioni, no? 2 milioni, sei, mi pare 2 milioni. Ma che sei, il James Bond da radio? La stai a buttare in cacciara? No, ma che cacciara? Buttare, stiamo parlando di cose serie, stiamo parlando di cose serie. No, Carlo. Sì, è bellissimo. 2 milioni. Bisogna pagare, milioni. Ragazzi, bisogna pagare le bollette, sì, al comune di Genova. Accenta, ieri devi dire la stessa cosa a Coccolino Amoroso e Cocchino. Tutte e due, dovete pagare tutte e due. Preziosi, ah, Preziosi. No, ma dovete pagare, però noi ci stupiamo di lei, perché Preziosi è a Genova da tanto tempo. Lei è appena arrivato. E già cominciano a pagare. Ecco, rischiate di restare al buio. Ma a me dei Preziosi, del consorzio e della bolletta non mi frega niente. Guarda quanto so caruccio e la cravattella. Sì, ho capito che non vuole rispondere. Ho capito che non vuole rispondere. No. Ho capito che gli è venuto il braccino corto. Non facciamo cose che offendono i genovesi, però gli è venuto il braccino corto. A me dei Teroni non mi frega niente. Sì, eccala. Datemi ad amico e poi vedi che braccino corto. No. No, no, no, arrivederci, bravo. Il nostro Andro Mercù, hai capito, Pier, cosa succede ad avere il braccino corto? Ho capito. Mi raccomando, fatti onore. Senti, ti faccio sentire per chiudere Mancini su, sì, Kovacic, perché a me ha ricordato sinistramente quello che diceva Mazzari, solo che Mazzari lo lapidavano ad Appiano Gentile quando parlava così di Kovacic. Invece, siccome lo dice Mancini, va tutto bene. Aspetta che ti faccio sentire oggi Mancini su Kovacic, vigilia di Cagliari-Inter. Vediamo se lo recuperiamo. Ecco, credo qua che Matteo abbia delle... Va bene, ha detto sostanzialmente Matteo Kovacic ha 20 anni, quindi siccome ha 20 anni non gli si può caricare l'Inter sulle spalle. Legittimo, ma Pier, e ti do 20 secondi, ricordo che lo diceva anche Mazzarri e le critiche erano altre. Sì, ma Mazzarri non era criticato perché diceva questo, Mazzarri era criticato perché... Anche, No, poi non passava per essere, diciamo, l'allenatore più innovatore, più dalla parte dei giovani della storia. Mancini in questo momento sta facendo altre scelte, è abbastanza chiaro, abbastanza evidente, sta nelle sue facoltà e fin qui nelle ultime uscite ha avuto anche ragione, perché col cambio di modulo l'Inter si è crescente. Sì, e poi ha scoperto Shaqiri, che Mazzarri non aveva e che è un giocatore importante. Abbiamo finito, ciao Pier, buona partita. Ciao, a domani. Ciao. Domani dopo il GR delle 14. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato, Pietro Lacorte in regia. Tutti convocati weekend, torna domenica prossima alle 17. Carlo e Pier invece vi aspettano domani dopo il GR delle 14. Ciao. Tanto qui i tifosi abbastanza furibondi cominciano a far esplodere qualche bombone, tanto per riscaldare la serata.